Topic è un collettivo, un laboratorio politico che a casa a Pianoterra è uno spazio comunale occupato dal 2012 in quel dell'isola in via Confalonieri. E Off Topic ha sempre fatto, dalla sua nascita, nel solco dell'attivismo No Expo e negli anni a seguire l'osservatorio critico sulla città, la progettualità critica rispetto alla trasformazione urbana e il tentativo anche di innescare vertenze e lotte territoriali in economia core business. Nella crisi Covid-19 abbiamo sviluppato in questi due mesi un lavoro di analisi critica e controinformazione, cercando di analizzare tutti quegli aspetti che in qualche modo erano legati all'emergenza, quindi da lavoro, diritti, salute, reddito, mobilità, modello di governance e il capitalismo della sorveglianza. E abbiamo notato una cosa nel dibattito pubblico che nell'emergenza, nella crisi si è sviluppato, ossia che provvedimenti presi o da adottare, priorità, insomma, tutti i ragionamenti hanno sempre parlato di redditi da lavoro anche come oggetti sacrificabili e quindi non ultimo anche le dichiarazioni del presidente di Confindustria. Ma da quel dibattito pubblico mancano sempre due parole, secondo noi, e sono appunto le rendite finanziarie e immobiliari, e quindi in sostanza il patrimonio, i grandi patrimoni finanziari e immobiliari che caratterizzano gli italiani. E appunto su questi temi ci confrontiamo con voi. Due parole veloci su chi sono i nostri ospiti: Andrea Fumagalli, economista laureato in Bocconi, dove ha insegnato e dove, mentre attualmente insegna all'Università di Pavia, storia dell'economia politica e teoria dell'impresa, autore di numerose pubblicazioni, soprattutto sui temi legati al lavoro, al reddito di base e al biocapitalismo cognitivo. Alessandro Santoro, economista, laureato in giurisprudenza a Milano e docente presso l'Università Bicocca di Scienze delle Finanze, dove svolge anche attività didattica presso la Bocconi. Esperto tributario, collabora con il Ministero delle Finanze ed è stato consigliere anche economico della Presidenza del Consiglio dei Ministri. E infine Andrea Di Stefano, giornalista, esperto di economia, voce conosciuta e curatore del programma radiofonico Giorno delle Locuste, ma soprattutto già direttore della rivista Valori. Io vi ringrazio tutti e tre per la disponibilità data e a questo punto lascerei, credo, a Mario introdurre il primo blocco di domande che rivolgiamo ai nostri ospiti. Vai Mario. Allora, la serata è sulla patrimoniale. La patrimoniale rappresenta una questione antica e controversa che ha attraversato spesso il dibattito tra politici e economisti e anche dell'opinione pubblica. È un fenomeno complesso, nel senso che si parla di patrimoniale mobile, sul patrimonio mobile o immobile, tra persone fisiche e giuridiche, fisso, variabile, progressiva, una patrimoniale una tantum che si ripete, altro ancora. Nella storia italiana ci sono degli esempi abbastanza, particolari. Ci sono le patrimoniali di guerra, l'oro per il duce, ci sono le patrimoniali dopo la seconda guerra mondiale che hanno portato poi a quella cosa che si chiamava INVIM, c'è la famosa patrimoniale di Amato del 6 per 1000 sui conti correnti che fu pubblicata a nottetempo, che ancora è famosa, oppure quelle cose che si chiamano ISI, ICI, che adesso si chiama IMU e che ha tante caratteristiche, tra cui non essere progressiva, il bollo, insomma, ecco. La prima domanda che facciamo a tutti è una domanda di questo tipo, cioè l'imposta patrimoniale nei modi applicati e nelle forme e quantità, diciamo così, abbastanza soft, in Italia è un tabù, ed è un tabù più di quanto lo sia negli altri paesi. La domanda è perché, cioè quali sono i motivi storici, economici e politici di questa ostilità e poi di fatto fattiva impossibilità? Lascerei la parola in ordine di presentazione, facciamo a Andrea Fumagalli, poi Alessandro e poi l'altro Andrea Di Stefano. Prego. Grazie mille Mario, grazie a tutti e a tutti, grazie a Luca per l'introduzione No, la domanda che poi è una domanda che potrebbe richiedere parecchio tempo per una risposta esaustiva, che ovviamente non abbiamo, quindi io cercherò di essere breve e sarò necessariamente parziale. Su questo tema credo che Santore e Di Stefano ne siano molto più competenti di quanto possa esserlo io. In Italia abbiamo una concentrazione nei patrimoni molto marcata. Abbiamo già una concentrazione dei redditi come flusso di redditi derivante dalle varie attività economiche che vengono svolte nel paese, già abbastanza concentrata. Dopo, se non sbaglio, la distorsione della distribuzione dei redditi in Italia, in Europa è tra le più elevate, forse seconda solo all'Inghilterra. La stessa cosa vale per la distribuzione patrimoniale. Noi abbiamo che una quota molto minoritaria di cittadini residenti italiani detengono una quota molto cospicua di quello che è il valore patrimoniale, che ovviamente sono le categorie che maggiormente sono in grado di fare lobbying da questo punto di vista. E sono quelle che, anche se sono minoritarie da un punto di vista numerico, sono quelle che detengono, diciamo, la capacità di influenzare la struttura di potere che è politico, che in Italia non è, è anche abbastanza particolare per storia, tradizione, eccetera. Noi abbiamo un rapporto, non abbiamo mai avuto una rivoluzione manageriale nel sistema produttivo italiano. Il sistema delle imprese è polarizzato, diciamo, tra poche grandi imprese che hanno stretti rapporti politici di interdipendenza con le autorità di politica economica, con le autorità pubbliche, le istituzioni pubbliche, sia a livello centrale che a livello locale. Pensiamo soltanto, come esempio, alla struttura del sistema bancario italiano, dove tutta una serie di istituti di credito hanno forti legami con quelli che sono i potentati locali e con la gestione politica che sta dietro questi potentati. D'altra parte abbiamo una miriade di piccole imprese che magari hanno una carenza dal punto di vista di patrimoniale, se non quella relativa essenzialmente alla proprietà immobiliare, cioè la casa. Quindi la prima possibile spiegazione è che la struttura di potere politico è fatto in maniera tale che un intervento di tipo patrimoniale trova immediatamente una resistenza molto marcata, trasversale poi anche all'assetto politico. L'unica, di fatto è paradossale, che l'unica forma di intervento patrimoniale che più o meno si è verificata negli ultimi anni, e che in parte state ricordate da Mario, riguarda appunto la tassa sulla casa, nelle sue varie forme e accezioni su quelle sono dentro, no? Che è esattamente la forma di proprietà patrimoniale più diffusa in Italia. Sappiamo che quasi il 70% degli italiani posseggono una casa, non a caso è proprio su questo tipo di patrimonio che maggiormente si è verificata la creatività della tassa patrimoniale negli ultimi anni. Sui ingenti patrimoni detenuti invece da poche persone, questo è appunto un argomento tabù da questo punto di vista. Aggiungo un'ultima cosa, per non portare via troppo tempo, che riguarda il fatto che poi la struttura, questo è un discorso più generale che credo che verrà poi ripreso soprattutto da Alessandro Santoro, che appunto, ripeto, è sicuramente molto più competente di me in materia, abbiamo una struttura del sistema fiscale che è ancora vecchia, perché fa ancora riferimento a forme di tassazione che riguardano un sistema di produzione che ormai è stato superato dal tempo e dagli eventi. Noi abbiamo introdotto il concetto che tutti i cittadini sono uguali di fronte alla tassa, così come dovrebbero essere uguali di fronte alla legge, con la riforma Visentini nel 1900, che è entrata in vigore nel gennaio del 72, che poneva il principio che si fa un cumulo dei redditi e delle proprietà e sulla base di questo cumulo c'è un meccanismo di imposizione che dovrebbe essere uguale per tutti. In realtà questa riforma, che è una riforma liberale, niente di rivoluzionario e sovversivo, faceva perno essenzialmente su un bassissimo livello di tassa patrimoniale, con trattamenti differenziati per quanto riguarda alcune forme di patrimoniale immobiliare. Pensiamo a tutta la discussione sui BOT, sulla ritenuta da conto sui BOT e sul fatto che tutta una parte di rendite finanziarie non sono state minimamente intoccate o toccate in maniera assolutamente impropria. Non si capisce perché la tassa sui depositi, cioè quando c'è una realtà proprietaria che è molto diffusa, lì si accanisce il meccanismo di tassazione. La tassa sui depositi, sugli interessi derivanti dai depositi in Italia è praticamente il doppio della ritenuta da conto sui titoli di Stato. Piuttosto le tasse sulle plusvalenze, sui capital gains, sono anche lì trattate in maniera differenziata e molto minimali da questo punto di vista. Insomma, le entrate fiscali fanno perno essenzialmente sulla tassazione del lavoro e sulla tassazione della proprietà d'impresa, l'IRPEF e l'IRE, di fatto. Mentre oggi i cespiti di ricchezza, che stanno alla base dei nuovi e contemporanei processi di valorizzazione, si sono spostati verso realtà in cui l'attività di lavoro classica del rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato ha lasciato spazio a tutta una serie di altre attività non dipendenti che invece hanno un processo di tassazione diverso e tendenzialmente mediamente più marcato, e la proprietà dei mezzi di produzione non tiene conto del fatto che oggi i meccanismi di valorizzazione, i nuovi input produttivi hanno cambiato faccia e questi spesso sfuggono a qualsiasi livello di tassazione. Quindi abbiamo questa storia, ce la portiamo dietro, e io credo che si potrà rompere il tabù della tassazione patrimoniale nel momento stesso in cui si procederà a una riforma strutturale dell'imposizione fiscale nel suo complesso. Alessandro Santoro. Sì, buongiorno a tutti, buon pomeriggio. Aspetta che... Ok, mi sentite? Allora, visto che il tempo è poco, vi ringrazio per l'invito, cerco di dare qualche elemento in più per inquadrare la questione, poi proverò a dare anch'io un contributo per rispondere anche alle cose che diceva Mario. Allora, innanzitutto un inquadramento, secondo i dati più recenti, che peraltro non sono recentissimi, ma insomma l'indagine sulla ricchezza delle famiglie italiane e i dati Istat, il valore complessivo delle attività finanziarie e non finanziarie si colloca intorno ai 13.000 miliardi di euro, quindi circa 8 volte il valore del PIL attuale, cioè attuale, pre-crisi diciamo. Quindi è un moltiplicatore molto alto, uno tra i più alti dei paesi occidentali. Non è del tutto vero che questi patrimoni non sono tassati. Certamente i patrimoni immobiliari hanno delle forme di imposizione patrimoniale più visibili, quindi se sommiamo IMU, TASI e tutto il resto arriviamo a quasi 40 miliardi di tassazione. Poi ci sono in realtà sui capitali finanziari diverse forme di tassazione, adesso non voglio entrare troppo nei dettagli, ma insomma alla fine, con alcuni calcoli che io ho fatto, sono circa 75 miliardi di flusso annuo. Quindi significa che è come se ci fosse un'aliquota sul valore complessivo del patrimonio di circa lo 0,6%, come se ci fosse una sorta di patrimoniale dello 0,6%. Quindi questo mi consente di introdurre la prima parte della risposta alla domanda di Mario. È chiaro che ci sono dei grandi interessi che si oppongono a tassazione più significativa dei patrimoni, ed è chiaro che questi, diciamo, la prima obiezione che farebbero al ragionamento qui esposto è: non è vero che non esistono imposte sul patrimonio, le imposte sul patrimonio esistono, oppure sono sui rendimenti ottenuti tramite il patrimonio, che è concettualmente diverso, però sostanzialmente è del tutto simile. E questo tipo di argomenti fa comunque presa, fa presa per i meccanismi che ricordava Andrea, che sono meccanismi di potere, diciamo così, e fa presa sull'opinione pubblica, perché, sempre come ricordava Andrea, alcune forme di ricchezza sia immobiliare che finanziaria, sono comunque, per quanto concentrate molto tra i redditi elevati, sono comunque nelle forme, quantomeno, se non negli importi, abbastanza diffuse. Pensiamo alla proprietà dell'immobiliare o anche al deposito bancario. Quindi una prima parte della risposta alla domanda di Mario è che questi meccanismi funzionano bene, funzionano a livello di opinione pubblica e funzionano diciamo sulla parte politica, quindi sui rappresentanti politici, perché ogni volta che si accenna al tema della patrimoniale, la paura della perdita di consenso, che poi non so neanche fino a quanto sia come dire fondata, però la paura della perdita di consenso si diffonde immediata tra i politici, e questo poi è il livello più superficiale, diciamo così, della ritrosia anche a parlare solo di patrimoniale. Quindi ci sono due livelli di risposta, un livello diciamo più tecnico, un livello più politico. Io personalmente, per esempio, mi è capitato in alcune trasmissioni di polemizzare con Fogliani Sforza, credo che si chiama, insomma, rappresentante dei patrimoni immobiliari, non mi ricordo come si chiama la sua conf, forse Andrea se lo ricorderà, adesso lo googlo così lo capisco, comunque insomma, che mi diceva che appunto non era vero che in Italia ci fosse una tassazione bassa del patrimonio immobiliare e che invece era a livelli europei, cosa non vera, però non è neanche vero che non ci sia. Ora, ciò detto, aggiungo due cose. La prima è rispetto invece all'intervento iniziale, molto contestualizzato sulla crisi. Io credo che adesso un ragionamento su una, diciamo, patrimoniale una tantum potrebbe avere più ragion d'essere rispetto ad altri ragionamenti che pure a me, come diciamo studioso del sistema fiscale, quelle cose che dice Andrea piacerebbero di più, cioè introduzioni strutturali di elementi di tassazione patrimoniale. E questo perché? Perché noi stiamo per vivere, è questione di diciamo 3 mesi al massimo, 4 mesi, stiamo per entrare in un periodo in cui la nostra finanza pubblica sarà sottoposta ad uno stress di dimensione straordinaria. Per dirla in termini più diretti, corriamo veramente il rischio di avere un autunno di manovre fortemente, fortemente restrittive sul piano della finanza pubblica. E questo per una serie di ragioni. Prima di tutto la crisi, secondo il tipo di risposta che viene dato alla crisi, il fatto che gli strumenti europei sono limitati, il fatto che soprattutto la garanzia della BCE non è chiaro fino a che punto si estenderà, e senza quella il ricatto dei cosiddetti mercati finanziari si farà sentire. Quindi a quel punto ci troveremo di fronte un po' un'alternativa che sarebbe o quella di perseguire le solite strade per contenere, diciamo, il deficit e il debito, oppure di perseguirne altre nuove. E forse sono ottimista, ma forse in quel contesto un discorso su un'imposta patrimoniale straordinaria potrebbe avere dello spazio. Ovviamente potrebbe, significa che devono maturare tutta una serie di condizioni perché questo accada, queste condizioni di mobilitazione, di consenso, di diffusione di informazione, controinformazione, insomma tante cose, però al momento secondo me è la prospettiva più credibile. Notate che non esiste un problema tecnico ad introdurre un'imposta patrimoniale straordinaria, perché sia sui patrimoni finanziari che sui patrimoni immobiliari i dati ci sono tutti per fare una cosa equa e con un certo effetto rilevante anche sui conti pubblici, e quindi in questo caso il problema sarebbe tutto politico. Dopodiché è anche vero che qualcosa si muove a livello internazionale, più di qualcosa si muove, e io l'ho ricordato spesso nella trasmissione appunto di Andrea su Radio Popolare, e cioè che negli Stati Uniti, per merito di alcuni economisti americani, in particolare Seitz e Zucman, e della campagna delle primarie democratiche, e in particolare della candidatura della Warren, ormai la sensibilità rispetto alle proprietà equitative, diciamo così, alle caratteristiche di equità di un'imposta patrimoniale sui patrimoni finanziari, quindi non straordinaria come dicevo prima, ma ordinaria come elemento strutturale del sistema fiscale, si stanno introducendo, e questo può far ben sperare, perché di solito, essendo noi succubi del dibattito e delle dinamiche statunitensi, potrebbe portare ad un cambiamento, e quindi l'onda di questo cambiamento potrebbe tornare anche in Europa, con una però rilevante differenza, e cioè che è vero che il patrimonio finanziario è molto concentrato anche in Italia, ma non ai livelli americani. I livelli americani di concentrazione del patrimonio finanziario sono straordinariamente più elevati, per cui questo significa che è proprio facile far vedere chi verrebbe colpito, mentre in Italia è un po' più difficile far vedere chi verrebbe colpito da un'imposta del genere, perché c'è molta meno trasparenza e ci sono molti meno multimiliardari, no? Che poi sono quelli che colpiscono e attraggono anche l'attenzione pubblica. Quindi, per riassumere e finire sulla risposta, chiaramente dinamiche politiche sono la primaria risposta alla domanda di Mario, paura di perdita di consenso diffusa, devo dire, nella mia esperienza, a tutti i livelli, anche a sinistra, molto diffusa. Sono pochi quelli che hanno, diciamo, provato a sfondare questo muro. Attualmente, nel breve periodo, io credo che si potrebbe provare con un'imposta patrimoniale straordinaria, che poi tra l'altro evita tutta una serie di problemi che poi verrebbero usati strumentalmente per di fronte all'imposta patrimoniale ordinaria, cioè il fatto che appunto i patrimoni già pagano delle imposte, quindi la doppia tassazione. Adesso non voglio tediarvi con queste cose, ma poi sono argomenti che verrebbero fuori nel breve periodo. Nel medio periodo qualcosa si muove di fronte all'evidenza dell'enormità, come dire, veramente senza precedenti nella storia del capitalismo, dei fenomeni di concentrazione di ricchezza che si manifestano negli Stati Uniti, veramente senza precedenti, e quindi anche lì ci può essere terreno fertile, però questo ci porta lontano, nel senso che secondo me ci porta a riflettere sulla concentrazione dei patrimoni finanziari e sulla concentrazione enorme di potere che è correlata ed è che ad un tempo causa e conseguenza di questa concentrazione, e quindi sulla necessità di spostare un po' l'attenzione, perché se è vero che noi abbiamo enormi patrimoni in senso relativo in Italia, finanziari, relativo quindi ai redditi di chi vive del proprio lavoro e non ha questi patrimoni, è anche vero che questi grandi capitali italiani sono di proporzioni irrisorie in dimensioni e forse ancora di più in termini di potere rispetto ai grandi capitali transnazionali. E questo è un tema fortemente politico, perché, per dirla con come ha detto Brancaccio, il sovranismo è un po' la risposta dei piccoli capitali nazionali di fronte all'impossibilità di reggere lo secondo me, lo strapotere dei grandi capitali. E ovviamente ho in mente i nomi che credo abbiamo tutti in mente, che sono quelli di Google, di Amazon, di Facebook, di soggetti che non so come altro definire, se non appunto soggetti, la cui capacità di crescita, di valore, di profitto e di potere non conosce sosta e non l'ha conosciuta, anzi, neppure durante la crisi. Quindi, per me, nel breve periodo, giusto fare un ragionamento sull'Italia, sui patrimoni, sui capitali italiani, però bisogna sfruttare quest'onda che in qualche modo arriva dagli Stati Uniti, perché va fatta una riflessione anche sulle dinamiche globali. Andrea Di Stefano, prego. Ciao a tutti e grazie per questo invito. Io parto proprio dalla fine del ragionamento di Alessandro, non perché non voglia intervenire o non abbia un'opinione sul tema patrimoniale, ma perché non vorrei che questo ci offuscasse rispetto ai nodi fondamentali relativi al prelievo fiscale, un po' anche quello che diceva Fumagalli prima, cioè noi abbiamo una struttura ancora di fiscalità assolutamente non adeguata al cambiamento del sistema economico produttivo e al imperioso avanzare delle piattaforme. Le piattaforme stanno intercettando gran parte dei profitti che si possono realizzare nell'estrazione del plusvalore, e da questo punto di vista sfuggono a qualsiasi fiscalità. Quindi penso che la patrimoniale, se dovessimo farla, dovremmo partire da un'idea di una tassa su qualsiasi tipo di transazione economica, ovviamente rivoluzionando tutto il resto del sistema, perché questo potrebbe essere l'unico strumento per colpire fiscalmente in modo certo sistemi come quelli delle piattaforme, che vivono esclusivamente su transazioni attraverso monete elettroniche e qualsiasi altra forma di pagamento similare. Questo perché anche larga parte della ricchezza finanziaria, della ricchezza patrimoniale è già stata trasferita e può essere trasferita appunto al di fuori dei confini in termini di titolarità, e questo secondo me è uno dei problemi che si pone dal punto di vista complessivo nell'approccio al tema patrimoniale. Poi è ovvio che c'è un problema e che subiremo su questo una forte pressione sul fatto che in un ambito generale noi abbiamo una situazione con una fortissima concentrazione, diciamo, soprattutto di patrimonio immobiliare in capo alle famiglie, però stiamo attenti, questo patrimonio immobiliare è fortemente condizionato da due fenomeni, che sono quello di una bolla immobiliare che ha sostenuto negli anni i valori e che ormai si è in corso di sgonfiamento, e nel fatto che questa immobilizzazione patrimoniale non necessariamente significa disponibilità. Quindi da questo punto di vista una tantum patrimoniale rischia, per essere efficace, rischia di essere una riedizione del prelievo sui conti correnti, che francamente non lo considererei a tutti gli effetti uno strumento patrimoniale, perché va a colpire i depositi appunto sui conti, che non sono propriamente caratteristica, come dire, di ricchezza patrimoniale in senso stretto, e un fenomeno appunto che rischia di colpire quelli più deboli e quelli meno capaci di gestire le proprie disponibilità finanziarie. Su questo l'altro aspetto che secondo me è molto rilevante è nella struttura degli ultimi, diciamo, 20 anni, delle forme di di gestione dei flussi economici, quello che è accaduto è che noi abbiamo permesso, per una serie di scelte sciagurate, la crescita di posizioni di rendita parassitaria attraverso lo sfruttamento di quelle che erano, come dire, le infrastrutture naturali di proprietà pubblica. Quindi se dovessi andare a colpire, non so con quale strumento, ma se dovessi andare a colpire dei grandi patrimoni, credo che bisognerebbe andare a colpire appunto delle posizioni di rendita che sono poi ascrivibili ai gestori delle grandi reti. Quindi stiamo parlando di non solo e non tanto della famosa questione Atlantia e compagnia, ma per esempio anche di tutte le aziende delle multi utilities che negli anni si sono posizionati sempre di più in una posizione di rendita sui business che sono regolati, che sono obbligatori, che sono sottoposti a regolazione, che garantiscono flussi di profitti elevati e sui quali oggettivamente c'è un fenomeno sempre crescente di elusione dal punto di vista fiscale. Poi non dimentichiamoci il fatto che abbiamo a che fare con moltissime aziende che nel corso di questi anni hanno trasferito, ed è un tema di dibattito oggi, le loro sedi fiscali nei paesi a fiscalità competitiva, e tra queste abbiamo anche delle imprese statali, perché Eni, Enel, Leonardo e molte altre, e poi ci sono tutte le private, usano a piene mani appunto di alcune possibilità di dumping fiscale che si materializzano con l'Olanda, il Lussemburgo, l'Irlanda, le stesse che usano sostanzialmente le piattaforme. Quindi io sulla questione patrimoniale credo bisognerebbe un po' rivedere completamente il tema e per esempio decidere se non c'è bisogno anche di una patrimoniale ambientale, perché altrimenti se non utilizziamo, come dire, il tema della patrimoniale o comunque della tassazione per affrontare il nodo dell'emergenza ambientale e dell'emergenza cambiamenti climatici, a bocce ferme facciamo solo rastrellamento economico, finanziario, scusate, di flussi, ma non indirizziamo in alcun modo l'evoluzione e manteniamo delle rendite di posizione estremamente negative, perché incrociano sia gli elementi di posizione appunto di rendita economica sia di posizione di rendita sul consumo dei beni comuni e dei servizi naturali che poi paga la collettività, paghiamo noi. Alessandro Santoro si è riferito alla campagna elettorale, alle primarie statunitensi. C'è stata la proposta interessante di Bernie Sanders, che ha proposto una patrimoniale, mi pare che valesse l'1% sui patrimoni oltre 32 milioni di dollari, fino ad arrivare all'8% sui patrimoni miliardari americani. Questo chiaramente possiamo metterlo a confronto con quello 0,6% che citava prima Alessandro Santoro nel suo primo intervento. Come mettiamo insieme questa con, per esempio, la proposta del PD, che spero conosciate tutti evidentemente, che parla di un contributo di solidarietà per gli edit superiori agli 80.000 euro e che comunque sarebbe progressiva, ma un po' forse difficile applicazione, non lo so, è una proposta interessante o meno, ma soprattutto ci interessa cosa ne pensate di quello che ha detto Sara l'11 aprile, il sindaco di Milano, quando ha nettamente bocciato questa proposta del PD, dicendo che crea differenze e non è questo il momento di dividerci. Piuttosto lui ha fatto un appello chiamando alla generosità. Quindi io lancio la parola ad Andrea Fumagalli, 5 minuti cronometrati. Ma devo dire che innanzitutto la proposta del PD di introdurre un contributo di solidarietà sui redditi superiori agli 80.000 euro lordi l'anno, se non ricordo male, Innanzitutto non è un'imposta patrimoniale questa, è ovviamente aggiunge un'aliquota particolare che aumenta la progressività dell'imposizione sui redditi. E sono rimasto molto stupito di questa proposta, perché io personalmente la valuto positivamente, anzi avrei colto l'occasione per ripensare e rimodulare la progressività delle aliquote. Uno degli elementi di maggiore iniquità in Italia per quanto riguarda appunto la struttura dell'imposizione fiscale è il fatto che noi abbiamo delle aliquote tra il 36, 39, 41 e 43%, lasciamo perdere il 43%, dal 36 al 41% concentrato fra i redditi di imponibile lordo da 25.000 a 55.000 euro l'anno. È praticamente una flat tax questa, più o meno, no? Perché il livello di progressività è veramente miserrimo, concentrato sui redditi medi, che sono quelli che costituiscono la pancia, diciamo, della ricchezza su cui può far leva l'imposizione fiscale. Poi abbiamo un'aliquota che per i superiori ai 75.000 euro, da 75.000 euro di imponibile l'anno fino a più infinito, un'aliquota del 43%. Allora, io credo che se non capisco perché è stato scelto 80.000 euro e non 75.000 euro nella proposta che aveva fatto il PD, ma queste sono quisquilie su cui non mi soffermo. Però a questo punto sarebbe stato più utile, forse più coraggioso, ma noi sappiamo che la sinistra in Italia manca completamente di coraggio da questo punto di vista, no? Allora, ripensare dicendo, vista la situazione eccezionale, perché questa pandemia ci può offrire anche delle opportunità, vista la drammaticità e la particolarità della situazione, si possono sperimentare cose nuove, no? Così come sulla struttura di welfare, sul tema del reddito, anche sul tema della fiscalità. E allora ripensare a un intervento che rimoduli con delle aliquote, da una no tax area, una riduzione delle aliquote sui redditi fino a 35.000 euro, e fare una maggiore progressività, che già questo credo potrebbe essere anche da un punto di vista di percezione di equità redistributiva del sistema fiscale, credo che anche politicamente sia spendibile, pur nel contesto attuale. E il fatto che Sala risponda dicendo che non è il caso, non capisco dove stia la divisione in questa proposta del genere, anzi, secondo me andrebbe nella direzione opposta, e il fatto che si fa riferimento alla sussidiarietà e alla solidarietà, insomma, è veramente, come si dice, defatigante da questo punto di vista. E credo che non meriti neanche una risposta. Va bene, ottimo Andrea Fumagalli, che sei stato nei tre minuti. Alessandro Santoro. Ma guarda, io ho bisogno anche di meno di tre minuti. Sulla prima proposta la giudico una bandierina, cioè nel senso una cosa messa per guadagnare dei titoli sul giornale, che non aveva nessuna possibilità di andare da nessuna parte, infatti non è andata da nessuna parte. Non che io sia necessariamente contrario, basta che ci ricordiamo bene che lì dentro non ci sono i grandi patrimoni, lì dentro ci sono i redditi da lavoro elevati, ci sono i grandi manager, ci sono i giudici della Corte Costituzionale, ci sono i notai molto ricchi, per carità, magari è giusto che paghino di più di tasse, ma è un'altra cosa, non c'entra con quello che dicevamo prima. Quindi come bandierina può andare bene, mi interessa però poco. Per quanto riguarda Sala, boh, non so che dire, cioè, immagino che faccia parte del suo discorso sulla necessità di stare insieme, appunto, di non dividersi, eccetera eccetera, ma boh, non mi pare che sia una cosa che merita sinceramente tanto di essere commentata, se non per il fatto che forse quello a cui alludi tu, Mario, e cioè il fatto che Milano è stata al centro di grossi processi di creazione di rendita immobiliare negli ultimi anni. Allora questo forse rende l'affermazione di Sala più interessante, però è anche vero, per essere proprio obiettivi, insomma, che non è che lui avesse molti strumenti per estrarre quella rendita a favore della collettività, non ce li aveva, poi magari lui non li avrebbe neanche usati se li avesse avuti, ma questo è meno rilevante. Però certamente Milano ha offerto negli ultimi anni esempi di grosse speculazioni immobiliari che hanno generato pochissimo gettito, però questo si lega alle cose che si dicevano prima, non solo alle basse aliquote, ma alla struttura del sistema fiscale, al fatto che spesso queste società che realizzano questi profitti non sono residenti fiscalmente in Italia, e così via. Quindi è un discorso più grande di sala, ecco, mi verrebbe da dire così. Grazie. Andrea Di Stefano. Ma guarda, sulla cosiddetta, appunto, sulla Covid tax oltre gli 80.000, noi abbiamo anche scritto, abbiamo assunto una posizione su valori.it, senza alcun dubbio in sé favorevole, anche con tutti i timori ovviamente che ha enunciato molto bene Alessandro, cioè una proposta vetrina, non strutturata, insisto, senza quell'approccio complessivo che sarebbe indispensabile per affrontare il tema fiscale, senza alcun dubbio quello di rivedere una parte della pressione dal reddito da lavoro e per appunto prendere in considerazione le posizioni delle piattaforme e tutta la loro capacità appunto di eludere la fiscalità. Sulla proposta di Sala, ma non è neanche da commentare, sarei volgare nel definirla, insomma, nel senso che fa parte un po' del capitalismo compassionevole di stampo Bush repubblicano, insomma, la famosa storia che col capitalismo compassionevole risolviamo i problemi, insomma, parliamo di robe più serie, quindi non credo che sia nemmeno un tema all'ordine del giorno e un oggetto sul quale contendere, insomma. Mi interesserebbe molto di più ragionare, ma non è un tema della città di Milano, ovviamente, ma sempre di sistema fiscale, come dicevo prima, per esempio, grazie anche alla discesa dei prezzi petroliferi, ragioniamo della carbon tax estesa, quella potrebbe avere un senso, finalizzata ad affrontare alcuni problemi infrastrutturali che proprio nelle città come Milano sono determinanti, perché adesso un effetto ovviamente post-Covid sarà quello, quando torneremo a una mobilità tradizionale, di un'esplosione della mobilità privata, smantellando e danneggiando tutto il servizio pubblico e tutti i risultati, seppur claudicanti, comunque positivi, che erano stati raggiunti sul tema della mobilità collettiva e della mobilità pubblica. Grazie Andrea, e con questo ultimo intervento si chiude la prima parte di questo podcast su rendite patrimoniali nella crisi Covid-19. A risentirci, a presto. Questo podcast è una produzione del Laboratorio Politico Off Topic. Per approfondire queste tematiche puoi trovarci sul sito offtopiclab.org oppure seguire il nostro canale Telegram Off Topic Lab. Se poi vuoi conoscerci di persona, tutti i martedì sera dalle ore 21 ci trovi allo spazio sociale Piano Terra, in via Federico Confalonieri 3, al quartiere Issola. A presto, ciao!